Beam Busters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Vabbè, possiamo iniziare adesso? Possiamo. Ma dobbiamo? Benvenuti! Ma dobbiamo? Dobbiamo, soprattutto. Avete ascoltato lo Stalking by Intrinseco? Cari amici ascoltatori, benvenuti alla nona puntata di Filmbusters. Io al solito sono Alex Diro. Ciao. Con me, come avete capito dallo stalker, c'è l'Intrinseco. Ciao. E poi c'è il Monco che si introduce in maniera molesta. Ciao a tutti, ciao. Ci siamo fatti una settimana di vacanza, dove siete stati voi? A casa. Io sono andato alle esequie di Rambaldi. Sì. Io a quelle di Rambaudi, però avevo capito male, non era il calcio della razza a Rambaldi, quindi mi hanno cacciato via. Io ho rubato le spoglie di Rambaldi e le ho messe vicino a quelle di Mike Bongiorno, che aspetto di restituire. Hai rubato gli spoiler di Rambaldi? Sì. Quindi vabbè, doverosamente dedichiamo la puntata a Rambaldi, ma anche a Mel Stewart, che è il regista del grandissimo pilota di Formula 1 anche. No, non era quello. Ah no? No, stava un po' più indietro. È il regista del Mago de Oz. No, sì, del Mago de Oz, bella te. Della fabbrica del cioccolato. Vabbè, erano le copertine uguali, quindi. E il Monco, non so se vuole dire qualcosa dei suoi film preferiti. Che mi piace. No, volevo solo dire che siete tutti delle merde, voi dei forum. Perché non è che si può scrivere su Rambaldi rip e basta. Andate a fare in culo. Che cazzo dovrebbero scrivere? Qualcosa. Cioè rip qualcosa. Almeno dire ah sì, mi è piaciuto in tal film. Almeno quello dico. Rip lo scrivo anch'io. Se muore un dittatore coreano che non conosco, almeno due righe. Dai per favore. Non hanno fatto per le migliaia di morti su cui sono stati aperti i topic. E io lo farò ogni volta. Anch'io mi sono preso fior di ban per questa cosa. Quando era morto. No, quando stessi razzista. Ah, quando ha tentato il suicidio a Luke Wilson. Vabbè, sì, in effetti il rip è un po' un'attività passiva. Eh sì, soprattutto perché non era morto. Era un rip a priori, neanche lo. No, vabbè, ma io parlo del rip in generale. Cioè, ricollegandomi sì. A prima, insomma, sì, effetti Rambaldi. Cioè, ce ne siamo sempre lamentati, sulle... dai. Allora, se devi dire qualcosa di costruttivo. Allora, già che siamo in tema, niente pirateria, niente Blu-ray rip, così. Ok. Vabbè, allora non possiamo parlare di niente. No. Vabbè, dai, allora partiamo con la nostra prima rubrica di consuetudine, ovvero quella relativa ai trailer. E parte Intrinseo che ci parla di un trailer un po' raccomandato. Sì, molto raccomandato. È un teaser trailer, ma secondo me è la lunghezza ideale, un minuto e qualcosa, perfetto, che non li fanno tutti così. Ed è il primo film, sì, perché prima ha fatto solo cortometraggi, di Brandon Cronenberg, e da qui la raccomandazione. E di chi? Del padre. Ah. È il un figlio dello Spirito Santo. Esatto. Uno è Trino. Giochiamo a Train. Sì. Tutta puttane, dai. Chiudiamo. Sì, che tu abbia esordito a Cannes, se non sbaglio, è stato mandato per la prima volta lì il film. Non ho letto tanti pareri, tante opinioni. Infatti, ho anche evitato di leggere un po' per interesse. Tanto al cinema non arriverà mai. Comunque, sì, mi sembra brutto provare interesse a priori per un film solo perché il regista è il figlio di uno dei miei registi preferiti. Però poi vedendo, leggendo la trama e vedendo poi il trailer, l'interesse è diventato più genuino, cioè nel senso c'è materiale per cui provare interesse. Riassumo un po' la trama, che è appunto la cosa più sfiziosa. C'è questa clinica che si chiama Lucas Clinic, appunto, che offre un servizio stranissimo, cioè vende i virus delle celebrità. Quindi chiunque sia appassionato, che ne so, di Justin Bieber può ordinare il suo herpes, iniettarselo e non so, e condividere con lui questa cosa, no? Rimane solo questo di contatto con la celebrità. Già come trama ricorda molto i film del padre, no? La malattia, la carne, l'ossessione, insomma è molto sociale come film. E poi questo trailer davvero inquietante, insomma, qualcuno darà molto fastidio perché sono iniezioni nelle gengive, iniezioni in generale, prelievi, bolle, tumefazioni, insomma è abbastanza cronenberghiano già dal trailer, quindi c'è anche un'eredità artistica, insomma spero che prenda una sua direzione questo Cronenberg, però sembra che insomma sia stato molto influenzato dal padre. Anche dal punto di vista sonoro è abbastanza disturbante con, sì, con quegli effetti che regalano, sì. Sembra concreto come film, nel senso fantascientifico ma realistico, invece poi ci sono queste scene, queste escrescenze che escono dalla schiena, la faccia del protagonista con questa mascherina di metallo, non so cosa rappresenti poi nel film, comunque è abbastanza visionario e inquietante in tutto, sto suono che bombarda, immagini sgradevoli, insomma sì, c'è questo ragazzo Sid March che sembra insomma che si avvicini, o comunque si accetti, all'inizio si avvicini a questa esperienza e a un certo punto ordina il virus che ha colpito questa Anna Geist, se non sbaglio si chiama, e solo che questo virus è particolarmente grave, sta uccidendo l'attrice o la cantante, non so, e quindi lui, avendo contratto lo stesso virus, credo che cercherà di capire di cosa si tratta e di guarire, quindi è anche un film epidemico, quasi, non credo uno zombie movie, ma quasi, dal trailer non è chiaro bene che tipo di impostazione avrà. È molto interessante, a me intriga, sembra un film tosto, sembra un bel esordio, ho letto qualcosina, appunto dicevo, mi sono risparmiato troppi spoiler, comunque se ne parla bene, male, non, niente via di mezzo, vedremo. Poi è interessante perché oltre a questo teaser, che è un teaser appunto, quindi non si sa neanche la data di uscita del film, è ancora tutto da vedere, c'è un viral, appunto parliamo del film che si titola Antiviral, e poi che non esserci un viral, che è una cosa che io di solito non apprezzo troppo, qui è abbastanza ben fatta, è appunto il sito della Lucas Clinic, non è fatto benissimo perché non è molto completo, però sembra un sito vero, si possono ordinare, dicevo, l'herpes di un certo Griff e altre malattie della pelle di varie celebrità inventate, perché insomma se avessero messe quelle vere sarebbero baccati magari qualche denuncia, però è carino, è una bella preparazione al film che probabilmente uscirà tra un bel po', quindi ci facciamo bastare queste chicche. Ma si può ordinare la malattia che colpì Marco Columbro, per esempio? Il tumore al cervello? Sì. non so se può trasmettere, chiederò. Ho sentito un tono abbastanza interessato, Sì. Proprio, Marco Columbro mi interessa particolarmente. Capisco. Vabbè, alla fine è tutto intrinseco, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro. Che a pelle mi stanno sulle palle i figli di papà, quindi parto già prevenuto. No, però più che altro era per quelle poche cose che avevo letto che ne parlavano malino, però il trailer è così interessante che una visione comunque gliela voglio dare, anche se ne hanno parlato male, ecco. Forse è la prima volta che a partire dal trailer siamo più interessati rispetto alle voci che girano intorno al film, Illazioni. Sì. Esatto. Io mi sarei aspettato, proprio perché è figlio di papà, sei un po' più di informazioni, invece da Cannes non è che sia venuto fuori tantissimo, chiaramente qualche recensione di chi, io ho letto, ne ho letta una su Notturno che ne ha parlato dopo la fine del festival, ovviamente lì in questo genere i film parlano sempre bene, qui sembravano abbastanza entusiasti. E da lì anche è aumentato un po' l'interesse, ma ho letto molto poco e non so, forse vogliono tenerlo un po' nell'ombra finché non esce ufficialmente. Tanto c'è questo attore stranissimo, Caleb Landry Jones, che è nella foto di IMDb sembra una donna, non so se avete notato, sì, una donna col papillon, ed è quello di X-Men, ed è recentissimo e da noi amatissimo Contraband, era il fratello di Mark Wahlberg, no? Vabbè, ma come dimenticarlo? Appunto, insomma, una parte così, in un film così. No, però la faccia è giusta, poi beh, è bellissima anche la faccia di Brandon Cronenberg, ma l'avete visto? Non l'ho visto. Ha i basettoni, un piercing al sopracciglio, le guanciotte, ma non so. Io so solo che su Cineblog per giorni è rimasta la foto di Shia LaBeouf dell'ultimo film di Lars von Trier, no? Sì. Solo che non avevo detto la news. Quando ho visto Antiviral, si parlava di escrescenze visive, pensavo che quella fosse la foto di lui nel film di Antiviral, però poi... Madonna, quanti cazzi veri. No, però dai, l'hai visto, sembra Snoop Dogg bianco, è una cosa orrenda. Queste cose attaccate in faccia, no? sono delle fan. Sì. Vabbè, dai, passiamo allora al prossimo, ovvero dopo Antiviral, trattiamo Trouble with Curve, che è il nuovo film con Clint Eastwood che torna in un ruolo da attore, quindi davanti alla macchina da presa ma non dietro, sebbene figuri come produttore. Stiamo parlando di un film che parla del baseball. La trama in breve racconta le peripezie di questo gas, interpretato appunto da... che non è un gas inteso come... Spazzacamino. Esatto. E praticamente è uno scout degli Atlanta Braves, una squadra appunto di baseball, che ha problemi alla vista ed è costretto a farsi aiutare dalla figlia Mickey, che è interpretata da Amy Adams, bellissima. A complicare insomma la situazione ci sarà Johnny Flanagan, che interpreta Justin Timberlake, che è uno scout sullo stile del protagonista di Moneyball, uno scout di una squadra avversaria che appunto si innamora di Mickey, insomma ci saranno diverse, come dire, situazioni che verranno a generarsi da questo avvenimento, insomma questo innamoramento. Il film è diretto da Robert Lawrence, al suo esordio come regista di una pellicola, ma che comunque è stato regista della seconda unità di moltissimi film di Eastwood, dai Ponti di Madison County, Space Cowboys, Mystic River, Debito di Sangue, Miglior Dollar Baby, insomma gran parte dei film, a parte proprio gli ultimi, ovvero Invictus, Gran Torino, eccetera eccetera. Il film invece è scritto da Randy Brown, che invece è la sua prima sceneggiatura. E vabbè, insomma, dal trailer sembra appunto un Moneyball rigirato col calzino, in quanto il personaggio è proprio antitetico rispetto a quello interpretato da Pitt nel film che abbiamo appunto citato. E in un simpatico articolo dell'Atlantic Wire, che abbiamo anche postato sulla pagina di Facebook e che io ho adeguatamente travisato, si mette appunto proprio in risalto il fatto che si tratti praticamente di un personaggio che nel film di Moneyball stava dall'altra parte del tavolo rispetto a Pitt, cioè quei vecchietti che dicevano sì, vabbè, però il computer non ci capisce niente, qua l'istinto, qua e là. E infatti c'è proprio una citazione del trailer di Eastwood che parla proprio di questo, ovvero il fatto che il computer non capisce se un ragazzino ha l'istinto per giocare a baseball, insomma. E quindi vabbè, il solito ruolo da burbero, dal cuore d'oro di Eastwood, insomma, Moneyball mi catturò soprattutto per il fatto, almeno prima di vedere il film, soprattutto per il fatto che fosse coinvolto Aaron Sorkin, che è un grandissimo sceneggiatore. In questo caso, visto che comunque Eastwood non produce grandi film da almeno un paio d'anni, insomma, l'interesse è scemato abbastanza presto. Però vabbè, comunque si tratta di vedere davanti alla macchina da presa un attore che, sebbene come diceva Sergio Leone, ha solo due espressioni, col cappello e senza, è comunque un gran bel vedere, insomma, è anche divertente vederlo che fa il burbero, che sprite a destra e a sinistra e che manda a fanculo la gente, quindi... ma, in ogni caso, il film uscirà nelle sale italiane il 29 novembre, ovvero 2 mesi dopo l'uscita statunitense che è fissata per il 21 settembre, quindi... Magari se fosse uscito in un periodo un po' meno affollato qualcuno gli avrei anche dato una possibilità, così non lo so, insomma, non credo di sopportare 2 film di baseball nello stesso anno. No, non capisci nulla. No, scherzo, il baseball è un gran... mi piace moltissimo come sport, però è ti dicevo proprio il fatto che insomma non mi sembra sto granché. E mi era piaciuto Moneyball proprio per il fatto che i giovani mandano a fanculo i vecchi, quindi Revolution. Ma sì, poi come dice Pete in Moneyball, no? Il baseball ti fa sempre innamorare, ti fa sempre commuovere, sì, però il baseball, i film sul baseball ce ne sono troppi, sì, quasi. Poi sì, in un anno, due, e poi questa necessità di raccontare l'altra versione. Sì, diciamo che come per te l'unico interesse è vedere Eastwood di nuovo nelle vesti d'attore nel suo ruolo, perché insomma è la sua parte che fa sempre. Però al di là di quello, Amy Adams anche, dimenticavo, però... Vabbè, speriamo in qualche nudo di Adams. Non so, cioè, c'era già The Fighter, che era un film sportivo, lì c'era concessa in un déshabillé, vediamo. La mazza la gira bene. È vero, perché non fanno di nuovo un film di baseball con le donne, come quello con Madonna e... Ragazze vincenti. Ragazze vincenti, con Amy Adams, lì l'avrei visto, che cacchio. Oppure come la puntata di Futurama. Il Brainsball. Sì. Sì. Un live action su quella puntata, magari. Sì. Io vado controcorrente. Da appassionato di baseball e appassionato dei film di baseball, perché penso che quando fai un film sul baseball è impossibile sbagliare. Non dico che siano tutti film belli, però sono nessuno è brutto, ecco. Per esempio, vabbè, l'altra sera ho visto... Il migliore. Come sono è brutto? È quello con Matt LeBlanc e la scimmia. È bellissimo. Ricordo che ce ne fosse anche uno. La squadra degli Angels è protetta da degli angeli. Adesso non mi ricordo chi sì, ti aspettavo proprio su quelli. Sbaglio, ce n'era anche uno con tipo l'esordio cinematografico di Gordon Levitt, che c'era tipo un braccio che, siccome si era rotto, mandava la palla ad una velocità stratosferica. Era Robocop quello. No, fanculo. Aspetta, questo me lo trovo. Joseph Gordon. Robocop Goes Baseball si chiama. Levitt. Guarda, se ci sta sto film, guarda. Io non farò la chiudo tutto. Chiudo tutto. Mia che gioca a football, uno dei Simpson. Non so. Allora, in mezzo scorre il fiume, non è. Vabbè, comunque tu continua il tuo... Angeli in campo, eccolo qua. È quello, era quello con gli angeli. Sì, che c'è. Beh, appunto, sto dicendo. C'era anche Christopher Lloyd, forse. Mi ricordo che uno faceva una pisciata lunghissima. No, Christopher Lloyd. Sì, Christopher Lloyd era quello con Crispin Glover. Non so se era quello. Grande. Sì, vabbè. Vabbè, però vedi, sono tutti bellissimi, a loro modo, sono dei film bellissimi. Sì, dicevo, come dice Brad Pitt, ti commuove sempre, però appunto, non è un motivo per fare tanti film all'anno sul baseball. Poi Moneyball era così particolare. No, ma insomma, è uno sport che ha tutte quelle pause cinematografiche, che ti permettono di farci attorno chissà che roba. Invece gli altri sport, essendo così vivi, ti devi inventare altri modi. E poi, molto minor uso del rallenti, meno pubblico estasiato, non so. Il baseball è bello, punto. È bello quando te lo mostrano, quando lo vai a vedere no, invece, vabbè, è diverso. È bello anche quando non c'è, come in Moneyball, no? Sì. Dicevo, è bello anche quando non c'è, come in Moneyball. Sì, però è un film sul baseball, vedi? Il baseball c'è, è quello il bello. Sì. Come New York, la metti in un film e il film è bello. Certo. Il baseball è uguale, anche se non lo vedi. Secondo me funziona, perché nei film ce ne mettono comunque poco in relazione a... Cioè, comunque un film dura meno di una partita di baseball, quindi dicono che è bello. Invece una partita magari dura 2 ore e mezza e l'entusiasmo scema, forse per quello che funzionano così bene. Siete dei bastardi. No, intanto due note anagrafiche su il signor Eastwood, 82 anni, non li dimostra, ne mostra almeno 96. No, è una prugna ormai. No, è che si è imprugnato sullo stesso ruolo, cioè è sempre quello, però vabbè, cosa vuoi che faccia? Volevo dire invece che il regista non solo ha lavorato insieme a Eastwood, ma ha fatto anche Crossroads, quello con Britney Spears. Quindi non sai mai, cioè è bravo o fai film con Britney Spears? Non lo so. Soprattutto perché qui la parte di Britney Spears la farà John Goodman, ho sentito. Che è anche in questo film, incredibile. Infatti, che è la confezione di Britney Spears. Sì, esatto. Di tante Britney Spears. No, l'unica cosa che non mi è piaciuta è il trailer, la parte drammatica, la figlia abbandonata che ritorna, tutta sta tragedia, che poi credo avrà una parte molto minore, perché, ah sì, sei tornata, bene, andiamo. Però, insomma, la solita storia, il ritorno, il padre che si pente, e a proposito, no, ne parlo poi, quello. Niente, l'unica cosa minore, quella. Va bene. Io poi come risposta a Moneyball, che era, anche se non si vedeva lo sport, comunque era tutto sul baseball, e la parte personale era un po' sullo sfondo, comunque la storia del personaggio di Pete. Qui come risposta invece mi sembra un film che va proprio in altra direzione, la storia d'amore, il padre che si riavvicina alla figlia, insomma è un po' più fiction, quindi magari come risposta... Come gli anziani. Sì, sì. Cioè gli anziani devono dire qualcosa, gli dicono due frasette e poi parlano d'altro, appunto. Sì, è sul baseball, ma ci dobbiamo mettere dentro tutto il resto, va bene. E film di nonno Simpson. Esatto, sì. Va bene. Visto che io non porto nessun trailer, ne porto uno. No, no, è talmente brutto da non spenderci neanche un minuto, però è quello nuovo di Muccino. Anche qui un padre che si ricongiunge, la famiglia torna, anche qui sport... È un film simile, ma è molto più brutto, già da quello che si evince dal trailer. È quello che so sull'amore, che in inglese è Playing for Keeps, ne abbiamo parlato nella puntata del cine. Niente, non rispiego neanche la trama, ve l'andate a cercare, muovete il culo di trovare la puntata vecchia. Però volevo solo far notare che Muccino ha completato la metamorfosi. Se in Italia aveva un minimo di autorialità, minimo, proprio piccolo, potevi dire ah quanto è brutto, questo è proprio Muccino, cioè lo riconoscevi, adesso è nato in America e si è diventato un classico regista pagato un pochino per fare la classica commedia brutta, magari anche sportiva, con quei tempi, con quei modi, con quegli attori tipo Dennis Quaid che odio da morire, ecco, e questo film segna proprio il passaggio ormai. Muccino, no, ormai Muccino è americano, punto, tenetevelo per sempre, perché noi non lo rivogliamo più, basta, volevo dire solo quello, perché però complimenti, perché ha fatto un bel cambio. Sì, ma io ancora non ci credo che li dirige lui questi film. Ma questo no? Sì, questo sì, dai. Appunto, forse questo qua sarà una chiavica, proprio perché è venuto a meno, non è più un prestanome come lo era per i due film precedenti, che io non ci ho mai creduto. Questo arriva lì, fa delle cose che sono comunque insignificanti, però è un modo di girare tutto americano, lui l'ha imparato così da un giorno all'altro. Boh, non mi è sembrato sempre surreale come trasferta, quindi forse è vero, adesso lo lasciano fare e farà queste cose insulse ancora di più. News. Vai. No, vai tu, perché adesso tocca a te, devi parlarci di questi due giorni a Locarno. Tu è intrinseco, insomma, io mi eclisso per un po' e faccio domande inopportune. Ecco, vorrei dire che ci sei venuto anche tu, poi. Io faccio un po' lo Zeman, faccio le domande inopportune. Dai, fai. Io faccio Totti, quello che parla male. Sì. E io Cassano, allora, così. Che parla peggio. Certo. Alla grande. Se potessi dire... quello che so, ecco. Potrebbe. Allora, Intrinseco ci fa un'introduzione di questo 65esimo festival del cinema della città ridente, perché è sul lago e sono sempre ridenti questo tipo di città, di Locarno in Svizzera. Prego. Locarno si trova in Svizzera, la popolare, no, sì, ridente per modo di dire, almeno a metà, perché ne siamo andati, come vi abbiamo già raccontato, in due giornate diverse, abbiamo scelto due giorni particolarmente interessanti dal punto di vista degli eventi esterni al concorso, perché come abbiamo detto non abbiamo visto i film in concorso, ma... Vai, continua. Cosa? Siamo sinceri, già... almeno siamo sinceri. Io già sto a ridere da ridente per metà. Eh sì, ci devo arrivare. per chi ha appunto... No, perché qui il 5 agosto, la prima giornata che abbiamo scelto, ha piovuto che Dio la mandava, diluviato violentemente, tant'è che poi, vabbè, l'anticipo, la battuta, ma Ben Wheatley, nella presentazione del suo film ha detto, ha fatto due battute, ha detto, come io vengo dall'Inghilterra piovosa, mi dicono, ah, Locarno, vacci che c'è un bel tempo, e mi trovo questa chiavica, così, tradotto alla buona, non ha detto chiavica, ma quasi. E poi ha detto, mi faccio vedere questo mio film che è girato appunto in Inghilterra, quindi tempo uggioso, pianure verdi perennemente bagnate, quindi voi che lo vedrete in Piazza Grande, cioè dove vengono proiettati i film notturni, proiezioni notturne, qualcuno era rimasto nonostante il diluvio e lui giustamente ha detto, voi ve lo vedrete come se fosse in 3D, perché troverete quello che provano i personaggi immersi sotto... sotto questo tempaccio. In realtà poi si è scoperto che il film era molto meno piovoso che Locarno, infatti molto meno, tutto sommato, e comunque sì, al di là del maltempo, non c'è di cui lamentarsi, è stata un'esperienza nuova. Noi siamo più o meno vicini, a un'ora e mezza circa di macchina, dobbiamo giusto passare il confine, però non siamo mai andati. Non so perché, non ci è mai venuto in mente di andare, pure ogni tanto un'occhiata al programma la davamo, c'era sempre qualche retrospettiva interessante, noi giusto quelle possiamo vedere, anche perché diventa costoso. Così, per chi è in zona, sappiate che si può fare il biglietto giornaliero con 40 franchi o 30 più o meno, se siete studenti universitari con meno di 25 anni, quindi potete vedere tutto quello che c'è durante la giornata, quindi film in concorso, film fuori concorso, proiezioni serali, che sono due o una a seconda dei giorni. Bagni rotti, no, la prima volta erano aggiustati, il secondo giorno sì, si erano... però intanto c'erano i bagni chimici dappertutto, una cosa proprio, cessi chimici, staff chimico e insomma... E fame chimica. Era... Esatto, fame chimica dopo, certo. Molto ben organizzata, molto ben segnalato tutto, i cinema sono tanti, sono tutti vicini, Massimo c'era a camminare un quarto d'ora e il Monco lo sa bene, insomma tra una sala e l'altra se proprio va male, sono quelle più distanti, diventa complicato. Comunque, un breve riassunto di quello che abbiamo visto, il 5 agosto siamo andati perché a me interessava vedere il nuovo film di Ben Wheatley, che vi ricorderete, ne ho già parlato per Kill List nella puntata dei film dispersi. E poi perché in mattinata c'era l'incontro con Roger Avary, sceneggiatore e occasionalmente regista, due volte, ha diretto Le regole dell'attrazione, Killing Zoe, è stato un bel incontro, c'era il direttore del festival, Olivier Per, e il direttore di il caporedattore di Nocturno, Manlio Gomarasca, che è stata una presenza fondamentale, ha sgrignato i denti e ha fatto una domanda l'ha fatta. Non era neanche troppo male, comunque è molto bello, Avary aveva un sacco di cose da dire, più che altro esterne al cinema, della sua vita, di come lavora, di quello che chiaramente non ha potuto evitare di parlare di Tarantino, perché insomma, dove vai glielo chiedono, è il brutto di essere cresciuto artisticamente con lui, sei sempre messo a fianco, insomma, una figura ingombrante, però lui è stato educatissimo, gentile, ha raccontato, ha detto che Tarantino quando l'ha visto la prima volta era puzzolente, non so adesso, è entrato questo tipo che puzzava di sudore, sapeva tutto di film che io neanche conoscevo, insomma c'era anche un po' di invidia, poi però sono cresciuti, come dicevo, insieme e si è creata questa amicizia, quindi ha parlato di questo, di questo viaggio ad Amsterdam con Tarantino e altre persone, questo ritorno, la perdita di un amico, insomma tutte cose che lo hanno influenzato, lui parlava di sceneggiature come insomma, modo per lo sceneggiatore di esprimersi, anche quando ha in mano sceneggiature non originali, dicevo appunto che ha trasposto il romanzo di Bret Easton Ellis, e quindi insomma si trova anche a rimaneggiare cose non sue, eppure dice anche quella è un'occasione per dire qualcosa di mio, anche per crescere come regista, è stato molto bello. Poi abbiamo visto un paio di film di Preminger, e lì magari lascio la parola a lui dopo, e in serata siamo andati a questa proiezione che poi si è spostata nell'auditorium per la pioggia. E abbiamo visto due film, due novità, anche se una era un'anteprima, l'altra, quella di Wheatley, era stata già, se non sbaglio, proiettato a Cannes, anche questo. Sì. E anche lì, insomma, se non sbaglio, se ne è parlato abbastanza bene. Anche lì pioveva. Sì, probabilmente, sì, la porta lui, sì. È vero. Il primo è un film, Quelques heures de printemps, qualche ora di primavera, che è un film di cui non sapevo nulla, ci siamo trovati a vederlo perché eravamo lì, ne davano due, insomma ne abbiamo approfittato, molto bello, ne ho parlato nel mio riassuntone, mi ha fatto pensare a Million Dollar Baby, perché parte come storia di redenzione sociale di questo camionista che esce di prigione, e in poche scene invece diventa un film sull'eutanasia, anche se non è il tema del film, comunque parla di questo, del distacco, dei rapporti tra questo figlio e questa madre che fa questa scelta così complicata. È un film tosto, sia per le scene di cui parlava anche il Monco, molto forti, e queste liti sanguigne che mi ha fatto pensare a Moretti nei suoi film, quando maltratta la madre. Questo protagonista non la mena, ma quasi, ci va molto vicino. È molto freddo, insomma, parla di questo, cioè non freddo nel senso distaccato, ma freddo nel trattare questi temi difficili. In realtà è abbastanza, diciamo, un approccio piacevole, ecco. È asettico. Sì, non distaccato, non in maniera fredda, ecco. Non è cinico, ne parla coraggiosamente, come è coraggioso chi fa questa scelta, però è emotivamente molto forte. Mi ha colpito molto, bellissimo. Non so se arriverà nelle sale, no, non credo. Speriamo. Chissà, magari in qualche altro festival, e poi può darsi. E poi appunto è salito sul palco Ben Wheatley, è stato bellissimo, completo elegante, ma questa camiciona fuori dai pantaloni, le scarpacce da ginnastica proprio economiche, barba incolta, come l'avevo vista in foto, un elemento di rottura, anche perché prima c'era stato questo regista del Chad che aveva fatto un appello, insomma un minuto di silenzio che poi è durato 10 secondi, no? Non so perché, per colpa sua. Un minuto di silenzio, va bene, grazie, ed è finito lì. Insomma, tutto serio, tutto, poi un film sull'eutanasia, insomma, atmosfera tesissima. Arriva lui con passo militare, vestito come vi ho detto, e dice: va bene, io sono qui tutti in compagnia, io sono da solo. E invece, vabbè, vi prometto, come in inglese ovviamente, vi prometto sesso, violenza, sangue, cani e sesso. E poi se n'è andato facendo un saluto molto goliardico ed è scappato via, oltre a fare battute sul maltempo. Passiamo al film Sightseers, che è un appunto Sightseers, il sightseeing, la pratica di fare, insomma, di visitare bellezze storiche e di passaggio, di solito con una roba come fanno questi due protagonisti, che attraversano l'Inghilterra scappando dalla madre di lei, che è una malata, che ha bisogno di molte cure, iperprotettiva verso la figlia. Insomma, fanno questo viaggio e lui comincia, quasi senza motivo, a massacrare persone che loro si trovano a incontrare durante questo viaggio. Così, uno butta le carte per terra, lui se la prende a male, ci rimungina tutto il giorno e poi lo tira sotto col camper e con la roulotte. E da lì poi incoraggia anche lei, che per motivi futilissimi arriva ad uccidere chiunque. Poi è tutta una serie di scene imbarazzanti e grottesche. Sono loro due che hanno questi amplessi goffissimi, e questi omicidi fatti con la massima naturalezza, loro che poi ci scherzano sopra. È davvero una black comedy inglese, di quelle che ti lasciano gelido, perché non sai se ridere o se essere disgustato. Molta gente ha lasciato la sala, non so se perché non piacesse o se perché non tolleravano l'approccio. Comunque era anche mezzanotte, non sì, era anche una certa ora, però insomma sei rimasto fino a metà, vabbè, può darsi fosse quello, chissà. Ed è diretto da Wheatley, è scritto da lui insieme ai due attori, Daisy Lowe, che è la donna, la Alice Lowe, cioè la protagonista femminile, e Steve Oram, che sono due attori televisivi comici, e si vede, lei è davvero bravissima, questa facciona innocente, ma dice delle cose terribili, fa proposte sessuali indecenti, ma davvero indecenti, e compie gesti terrificanti. Sono davvero una gioia vederli nel cinema, anche questo non credo che lo vedremo mai, come anche gli altri film di Wheatley, che neanche escono in DVD o in Blu-ray, perché Kill List ma è un anno, è uscito in Inghilterra, addio. Non so, ero stanco morto, probabilmente a una seconda visione cambierei magari qualche idea, qualche impressione, però diciamo così, da quello che mi ricordo mi è piaciuto, vorrei proprio rivederlo, anche perché è davvero particolare, forse è così particolare che rientra in quella categoria di film che dopo un po' perdono un po' di efficacia. È strano perché è strano, cioè come Natural Born Killers, anche se c'è meno sociale, cioè non sono i due eroi tenebrosi che hanno, fanno questa cosa, applicano questa violenza per una ribellione di qualche tipo. No, sono due pazzi che uccidono e fanno quello che fanno perché sono pazzi, insomma, non c'è una razionalità, non c'è un perché. E mi è sembrato che perdesse un po' di ritmo e di forza durante la visione, ma può essere un problema mio, come dicevo. No, anche perché è un po' sconclusionato, insomma, è un viaggio in cui ammazzano a destra e a manca, e una struttura non ce l'ha neanche, insomma. Tutto sommato, appunto, per essere questo tipo di film funziona anche troppo bene. Durano meno, diventano noiosi dopo poche scene, invece tutto sommato funziona. È una cosa che si è divertito a fare, lui fa commedia. Kill List è stata, spero non una parentesi, comunque l'unico vero horror che ha fatto finora, speriamo che ci torni. E niente, poi siamo tornati il 10 agosto, che faccio, lo dico io, dividiamo? Aspetta, volevo solo dire, siccome Alex Diro è uno che non capisce l'inglese, fare un mega riassuntone di quello che ha detto Avari, anche nel pezzo che ho citato, che ho filmato. A parte quello che hai detto, non so, vi interesserà, se siete molto fan di Roger Avary, sappiate che lui è stato in galera, ma non ne ha parlato, quindi sarebbe stato anche interessante fargli una domanda sulla galera, ma vabbè, ha ucciso una persona, niente di che, ecco. E siccome è uno che fa film tipo una volta ogni 10 anni, e ha detto che questo è il suo nuovo decennio, quindi molto probabilmente ne farà qualcuno, i suoi prossimi progetti, molto probabilmente... Un altro omicidio? A parte quello perché ci ha provato gusto. No, ha detto, che poi bisogna vedere se li fa, sono idee, un film su Salvador Dalì, però sì, ha detto sarà comunque su me stesso più che su Salvador Dalì, però comunque, film su Salvador Dalì, e poi un'altra trasposizione di un libro di Bret Easton Ellis, Lunar Park, molto più horror, sì, si può definire così, degli altri di Bret Easton Ellis. E tra l'altro ha sottolineato più volte che lui e Ellis sono praticamente la stessa persona. Quando lui leggeva delle cose di Ellis, diceva: ah, questo sono io, sta parlando di me, anzi sono io che sto scrivendo. E appunto mentre leggeva Lunar Park aveva acquistato una casa da Carrie Ann Moss, tutti i nomi tripli a quanto pare, da Carrie Ann Moss, che conoscete spero, è l'attrice di Matrix ma anche di altra roba, e che lei aveva venduto dopo 2 settimane. Insomma, lui ha scoperto praticamente subito che era posseduta da uno spirito, una donna era morta nella vasca da bagno, e non l'aveva detto a nessuno della sua famiglia, ma una sua figlia, mi sembra che ne abbia due, comunque una delle due, e di notte sentiva come un blu, tipo qualcuno che stava annegando nella vasca, e lei aveva la stanza proprio vicino alla vasca, e lui ha detto: bah, strano, perché non ti ho detto niente di questa cosa. Allora ha provato lui a sentire, in effetti si sentiva, di notte si sente qualcuno che annega, non so se credo che la casa ce l'abbia ancora. Non credo che l'abbia venduta solo per questo motivo. Non ha detto nulla, infatti vi chiedevo se... Ha detto che ha fatto riverniciare la porta, perché sulla porta c'era la faccia di un diavolo, però sembrava che abitasse ancora, chissà. E da altro interessante, vabbè, ha raccontato come nel video che mentre lui era a Parigi, mentre lui si girava tutta l'Europa, perché lui è uno che ha girato il mondo, mentre Quentin Tarantino non era mai uscito dagli Stati Uniti, e ha fatto anche una battuta, gli ha detto: Quentin, mentre scrivevano Pulp Fiction, andiamo a scrivere i nostri episodi, insomma il film, da qualche parte. E lui gli ha detto: sì, andiamo ad Amsterdam, qualcosa del genere, traducibile in italiano. Amsterdam, Ned. Sì, beh, però in italiano non riuscivo a, no, infatti, a metterla in italiano, ecco. Penso che la ci arriviamo tutti, dai. Vabbè, insomma, Tarantino, oltre che puzzone, è anche un ragazzino che voleva andare a fare il turista strafattone ad Amsterdam. E appunto, mentre lui era a Parigi, è morto un suo amico a Los Angeles, strafatto di cocaina, si è lanciato giù dalla finestra del suo palazzo, è crollato giù dalla scala antincendio o cosa del genere. E, insomma, lui è tornato a casa, gli hanno detto... vabbè, ci vediamo dopo, eccetera. Lui, camminando per strada giorni dopo, sapendo comunque che era morto il suo amico, l'ha visto dal vivo, ha detto era talmente vivida la cosa che non era un'allucinazione, era lui, l'ho visto, non mi posso sbagliare. E ci ha parlato, insomma, hanno detto due o tre cose e lui ci è rimasto proprio dentro a questa cosa. Non so se ci farà un film adesso, però insomma. E poi per chi è fan di Killing Zoe sappiate che le scene a Parigi le ha girate in una notte e basta, perché era quello il tempo che aveva. Ha messo una telecamera sulla sua macchina ed è partito, si è fatto il giro di Parigi filmando così. E altro, questo è extra avariano, però mentre ero lì che pendevo dalle labbra di Avari, alzo la testa e a destra si vede questo ragazzo, ragazzo brizzolato, anche maturo, con lo zainetto, un gilet nero di Dolce Gabbana e la camicia aperta sul petto, bianca, e ho detto, quello lo conosco, però insomma, non vado di certo là a dirgli, scusa, sei... E però, avvicinandomi e sentendolo parlare, mi è confermato che era lui, era Federico Buffa, non so quanti di voi lo conoscono, è un giornalista di Sky Sport, di basket, è anche esperto di calcio, ma esperto di tutto. Sì, sì, esperto di qualsiasi cosa, impressionante. Non sapevo, cioè sapevo che gli piaceva il cinema, ma non che fosse così esperto, perché è stato lì tutto il tempo, ovunque ti giravi lo vedevi, perché io sono stato poi in giro per la città perché ho perso un film, e mi sono girato in una biblioteca, in una libreria, e lui era lì che chiedeva indicazioni. Sono andato per negozi e ce l'avevo davanti. Andiamo a vedere Election e lui era sulla destra che commentava il film con altri. Insomma, Locarno è sinonimo di buffa, ed è un grandissimo buffa, è un grande davvero. Adesso, se vuoi continuare con la decima giornata, con la 10. Ah no, sì. Due righe su Preminger, due parole su Preminger. Come si dice, Locarno ogni anno dedica una retrospettiva a vari registi. Mi sembra che nel passato c'è stato il grandissimo Lubitsch, Wilder, Orson Welles, quest'anno è toccato a Preminger, e regista tedesco, e quindi dovevate vedere, la sala era strapiena di tedeschi che ridevano ad ogni cosa. Per esempio in Tempesta su Washington c'è una scena molto drammatica e tutti a ridere, non lo capisco il senso dell'umorismo dei tedeschi, ma davvero ridevano ma fastidiosamente per ogni cosa. E comunque noi siamo riusciti a vedere Tempesta su Washington appunto con Henry Fonda, e un thriller fantapolitico, perché non è basato su cose vere, ma insomma il libro usa degli altri nomi ma si riferisce a personaggi chiarissimi della politica americana. Molto interessante, molto forte, non le manda a dire. E volevo dire una cosa, non me la ricordo, fa niente. E poi ho obbligato intrinseco a venirsi a vedere un bel musical che è, il titolo in italiano non me lo ricordo, ma Bellezze rivali. Summer, Bellezze rivali, che insomma è un musical di bassa lega, non era il massimo, non era neanche un musical a conti fatti, quando hanno cantato tre canzoni, quattro. Sì, infatti sembrava molto più musicale nelle prime scene, invece no, abbastanza parlato, ma soprattutto non ha numeri ballati, canzoncine ogni tanto, un musical per modo di dire, però è valsa la pena vederlo solo per Jean Crane, che è bellissima, e insomma lei è stata l'unico motivo che valeva la pena. E niente, sono contento che abbiano dedicato questa retrospettiva Preminger, che è uno dei miei preferiti, e soprattutto è stato votato da tutti i locarnesi e dai turisti come il suo film più bello, Anatomia di un assassino. Bisogna spiegarlo, è il commento di un esperto di un esperto spettatore che era lì, che ha detto che appunto Anatomia di un assassino, di un assassino anzi, è praticamente la pietra di paragone di tutti i loyal drama, cioè insomma seccata una qualsiasi cosa volesse dire, noi siamo d'accordo. Sì, era anche trafelato, quindi magari era bella. Però è stato... è un problema, sì, di vedere tanti film una sala dall'altra, uno delira, il caldo. Anche perché la seconda giornata era caldissima, quindi. Sì, e a questo proposito vai con la seconda, vai. Volevo giusto chiudere e commentare, ho detto su Avari, che è un personaggio che io conoscevo poco e più che altro per la vicinanza a Tarantino, è stato bello questa serie di aneddoti, cioè, anche se è il classico cugino che ti trovi in casa e che ti dice che crede ai fantasmi, no? Tu rimani un po' stranito, però vabbè, l'aneddoto è divertente, l'aneddoto che ha raccontato lui è molto bello, mi è piaciuto anche come parlava di questo amico che è morto mentre lui era via, e non era tanto un fatto di soprannaturale, cioè lui lo vedeva perché era morto quando lui era in Europa, quindi non l'aveva visto morire, non l'aveva visto sparire, e per lui era ancora vivo, cioè emotivamente non c'era stato il distacco, e quindi per lui era, rivederlo era normale, anche se probabilmente è pazzo, visto quello che poi ha raccontato. È molto bello, molto, è una persona molto emotiva, e non l'ho mai sentito parlare, ha raccontato delle cose che non tutti magari in pubblico racconterebbero, specie in un festival magari tra virgolette minore, però si è aperto, poi gentilissimo con tutti. Beh, un bel personaggio e una carriera interessante. Vabbè. Ed è proprio un grande affabulatore, perché sì. Pendi dalle sue labbra, bravissimo, ti racconta ottimo una cazzata. Inglese, pulito, sì. Comprensibilissimo, quindi anche chi magari la mastica meno, anche perché, ecco, lo premetto, Locarno è nella Svizzera italiana, per chi non lo sapesse, però è un festival completamente francofono, anglofono e tedescofono, cioè se non è un film italiano non aspettatevi sottotitoli italiani, perché non esistono, se è un film francese, inglese, sono i sottotitoli inglesi ogni tanto, ma altrimenti nulla, e le interviste non sono tradotte in italiano, cioè, va bene, per me non è un problema, è giusto imparare l'inglese, però è strano, cioè è come se l'internazionalità debba essere per forza un debito verso gli altri, in Italia la lingua è l'italiano, insomma, vabbè. Non so, mi ha lasciato un po' così, stranito, è come se il Festival di Venezia fosse comunque in francese, in inglese, perché gli ospiti sono più che altro stranieri. Vabbè, passiamo al 10 agosto, che è la seconda giornata che abbiamo scelto, e qui abbiamo cambiato programma, perché volevamo andare il 9, c'erano retrospettive interessanti, sempre su Preminger, e c'era un film prodotto da Johnny To, però giustamente poi ci siamo detti, ma è meglio vedere un film prodotto da lui, magari vederlo da lontano, vedere la conversazione, che visto quella di Avari era stata così bella, perché non approfittare? Quindi abbiamo spostato al 10 quando e abbiamo preso nel culo, sarebbe stato bello, è andata bene, è stata una bella giornata, e quindi la mattina di nuovo conversazione con questa volta con Gianito, quindi diciamo che la scelta del secondo giorno era più legata agli interessi del Monco, ci siamo divisi un po', anche se Johnny To mi piace molto, non ho visto tutto, ma è un regista veramente interessante. E questa purtroppo è stata una delusione, nel senso che sì, come diceva lui, ce la siamo presa in quel posto, perché chiaramente abbiamo visto un personaggio che non vedi tutti i giorni, abbiamo sentito cose interessanti, però l'intervista però era a livello amatoriale, non so, siamo stati tutti e tre all'università, magari è capitato di sentire uno che faceva la domanda al professore o all'ospite, a me ogni tanto viene qualche scrittore, capita, e c'è quello che deve fare la domanda per far vedere che lui ha letto, ha visto, sa, non so, del tipo, ed erano tutte più o meno così. Ho notato che nei suoi film i personaggi fanno questo, questo e questo, e per esempio in questo suo film e in quest'altro, quindi è una domanda di 5 minuti buoni, e la risposta potrebbe essere benissimo un sì, perché è una richiesta di conferme. E questo te lo aspetti dal pubblico, invece queste domande le faceva l'intervistatore, che è un giornalista, Julien Gester, o Gester, credo sia francese, scriveva su Grazia, versione francese di Grazia, scrive su varie riviste culturali, di cinema, non solo. Gay. Se avete visto le foto, fantastiche, la posa fantastica, insomma, è bellissimo. Tra l'altro, classico moderno giornalista presunto, che tiene l'iPad davanti e lo guarda mentre magari quello ti sta rispondendo, cioè hai lì il regista, cazzo, guardalo in faccia, no vabbè. E poi la tipica domanda preparatissima, è andato lì, si è sfogliato il libro, ho notato che in certi suoi film, aspetti un momento, in questo e in quest'altro, cioè gli ha dovuto consultare il manuale, fantastico, un momento di alta cultura. E poi l'altra parte della responsabilità è dell'interprete, che non so se l'ha scelto Johnny To, ma comunque lasciava un po' a desiderare, non parlava bene l'inglese, non capiva bene il cinese di Johnny To, comunque aveva dei seri problemi, ogni tanto si fermava e gli chiedeva che hai detto, almeno noi intuivamo che con il nostro poco cinese abbiamo intuito quello, era proprio davvero spaesatissimo, poi queste domande, queste risposte di diversi minuti, roba probabilmente interessantissima, lui le condensava in 2-3 parole, sì, sto lavorando a diversi film, sì, coinvolgo molti sceneggiatori nei miei film, questo, cioè stessa risposta riciclata 2-3 volte, bruttina, però quel poco che abbiamo capito che spesso capivamo direttamente da To, che spesso non resisteva e parlava lui in inglese, per dirvi il tono dell'intervista, ha raccontato un po' più che dei film, purtroppo si è parlato poco dei film, almeno noi abbiamo sentito poco, però ha parlato molto di quello che lui fa a Hong Kong come produttore più che altro, come mecenate. Lui ha creato questa compagnia che si chiama Milky Way, che inizialmente probabilmente produceva solo i suoi lavori, adesso è lanciata abbastanza ed è praticamente un aggregatore, come per i blog, di sceneggiatori, registi, cioè insomma lui ha tutte queste persone coinvolte, tra cui Wai Kafai, se non sbaglio, che non è tra i fondatori, ma se non sbaglio è uno dei sceneggiatori coinvolti, insomma ha questi sceneggiatori che scrivono insieme a lui i film, quindi tante menti al lavoro, e addirittura ho capito che fanno una scuola di sceneggiatura, cioè istruiscono nuovi sceneggiatori, quindi cioè, a Hong Kong c'è proprio una scuola di cinema, grazie a lui. E poi la Milky Way di nome la conoscevo, però hanno nominato anche questo Fresh Wave, che è un festival sempre di Hong Kong, che lui ha creato e che serve a premiare cortometraggi, mediometraggi, credo anche opere prime di registi di Hong Kong, che lui finanzia poi, o che il paese finanzia, comunque crea davvero movimento interessantissimo. Poi insomma ci sono dietro delle menti oltre a lui che si vede cosa producono, i suoi stessi film insomma sono una prova evidente che funziona, cosa che noi in Italia ci sogniamo, perché chi ci prova magari, ecco un esempio che mi viene in mente, Moretti con la Sacher, ecco una cosa del genere più grande con più soldi, immaginatevi cosa si potrebbe fare, invece no, vabbè. E poi a parte questo abbastanza deludente, potevamo benissimo andare il giorno prima e vederlo lontano, però abbiamo rimediato anche qui un autografo, che sembra una cosa brutta, ma insomma fa piacere e vederlo di persona, insomma non capita tutti i giorni, magari al Far East Film si vede più spesso, a Locarno a meno, quindi per noi è stato bellissimo. Poi magari il Monco commenterà, visto che il regista è uno dei suoi preferiti. Quindi vado più che altro in chiusura. Abbiamo visto Election, che io non avevo ancora visto, e lui sì, film di sempre di To sulla triade di Hong Kong. Con Federico Buffa in sala. Sì, è lì che mettiamo nel film. E visto che appunto va stretta amicizia anche con delle altre persone, quindi è proprio un personaggio socievole. E sul film non dico nulla, magari ne parlerà lui, è molto più realistico degli altri suoi film, ha un taglio più... freddo, è uno spaccato di questa triade, di come funziona, di cosa succede quando c'è una lotta di potere al suo interno, insomma molto bello, è un lavoro pulito come quelli della triade. E poi ci dovevamo dividere per fare una doppia visione, però purtroppo appunto siamo finiti in una sala che era da un tutt'altro lato di Locarno, il film che interessava al Monco e anche a me, ma io ho preferito altro, era dall'altro lato e poi come vi dirà lui, insomma c'è stato un problema. Io ho visto mi interessava un film di Lorena Shard, che ho sentito nominare per il film dell'anno scorso, Dernière Séance, e quest'anno proiettavano un suo film vecchio, comunque non è una novità, è La Dernière des Fous, che ha vinto a Locarno nel 2006 come miglior regia, quindi era un omaggio a un regista che è stato premiato e che quest'anno è anche nella giuria. Preceduto da un cortometraggio che praticamente è complementare al film, insomma una specie di premessa al film, racconta una storia molto simile. È un film che parla di a me ha ricordato un po' Pasolini, perché l'ambiente è rurale, ci sono questi volti inquadrati, questi volti contadini abbastanza brutti, non sono belli attori, belle donne, bei ragazzi, insomma la bellezza concreta della campagna, della gente rimasta attaccata un po' alle tradizioni. Però è un film che in realtà non ha nulla a che vedere con quelli di Pasolini, è molto più tragico, cioè non è una tradizione che rimane innocente, ma sono queste persone che sembrano fuori dal mondo. La madre di questo bambino, che è il protagonista del film, è pazza, non sopporta la vista dei familiari, non esce dalla sua stanza, il padre sembra quasi che abbia una relazione con la sua stessa madre, perché non potendo più avere contatti con la moglie si rifugia in questa strana relazione, questo strano rapporto. Invece il fratello del ragazzino è omosessuale, ma non ovviamente non lo può ammettere, anche perché vive in un contesto che non accetta l'omosessualità. E insomma hanno tutti dei problemi, e lui ha 10 anni e chiaramente come tutti i bambini ha una ricerca degli esempi, dei modelli, delle risposte, no? Per esempio vede l'amica uscire dall'acqua, questa è una scena strana, forte, qualcuno ha turbato, questa ragazzina che era per la prima volta in ciclo esce dal lago sanguinante, il bambino turbato non capisce, lei scappa via e lui rimane così, con questo dubbio, però non può andare a casa a dire ai genitori, ma cosa è successo, cosa significa, qualsiasi cosa che gli passi per la testa rimane lì a consumarlo, e insomma, come si intuisce dalle prime scene, non spoilerò nulla, insomma, è un film molto teso, si capisce che va in una direzione tragica, che c'è qualcosa che non va e che precipiterà presto, insomma. Molto forte. Dietro di me c'è una ragazza tedesca che è uscita davvero singhiozzante. A me non è sembrato quel tipo di dramma, non è così coinvolgente, è molto distante dallo spettatore, è quasi surreale, però ha colpito. È molto interessante, il regista da tenere d'occhio, perché io se non l'avessi visto qui probabilmente non avrei, almeno per il momento, visto nulla di suo. E quindi, giusto per concludere, è un'esperienza molto bella, più che altro per gli incontri, perché i film prima o poi si mediano in qualche modo. Lì, una volta che sei lì, ne approfitti, sei immerso nel cinema, è bellissimo poter vedere anche un Preminger, che puoi benissimo trovare in videoteca, magari, non mica tanto, però nel senso, puoi comprarlo, puoi vederlo a casa, in HD. Però visto lì è tutta un'altra cosa. Non è Venezia, non è Cannes, però è organizzato molto bene, molto vicino ai fruitori, non è... Sì, a parte la barriera della lingua, mi è sembrato accessibilissimo in tutto. Il paese è piccolo, si può fare di tutto durante i giorni. I prezzi dei giornalieri sono accessibili, le retrospettive interessantissime, gli ospiti, ho già detto, grandiosi, io sono contentissimo. Ho visto Wheatley, che probabilmente non vedrò mai più o non avrei mai visto in altrimenti, perché è un regista minore. Johnny To, che quando ci ricapita, Avary, che anche quello non è facile incontrarlo. Buffa, per esempio. Insomma, sicuramente ci torneremo, perché è qui a due passi, tra virgolette, ed è... ci ha fatto venire voglia di tornare. E penso che... Il cedolo... Pronto? C'è la censura, vedi? È finito l'ossigeno, credo. No, non lo so. Funziona adesso? Vai. Ci sei? Ah, ma io non mi sentivo? Sì. Sì. Da che punto è sparito? No, no, dall'ultima frase proprio. Niente, che... No, è finito, era solo il lascio lì. Lascio la parola a lui, ok? No, no. Okay. Sì, Johnny To, uno dei miei preferiti tra quelli viventi, tra quelli non in bianco e nero. Lo chiamano, a proposito, visto che fa due film all'anno, ne produce quattro, insomma è quasi difficile vedere tutto di lui, neanche lui ha visto tutto dei suoi film. Lo chiamano appunto il Jerry Bruckheimer americano, per favore, e il Jerry Bruckheimer cinese, per favore, almeno lui fa roba di qualità, Jerry Bruckheimer, insomma, e poi soprattutto Johnny To mette la firma e fa cose molto autoriali, Jerry Bruckheimer è solo produttore, però vabbè, insomma, il paragone ci può stare fino a un certo punto. Purtroppo l'intervista non è stato il massimo, perché questo imbecille di giornalista ha fatto domande ridicole e tra il pubblico, sempre buffa, ha fatto domande che sono state di gran lunga superiori alle sue. Però appunto io ero in prima fila come una ragazzina a strapparmi i capelli e non ho neanche sentito quello che ha detto. L'importante era stargli davanti e aspirare il fumo dal suo sigaro. Poi quello che ha detto era minore. Purtroppo è stato tradotto male, è stato richiesto male, però fa niente. Anche lui molto disponibile, tra l'altro, con i sottotitoli, con gli autografi, perché si autosottotitolava. Particolare e molto bello di Johnny To, lui capisce benissimo l'inglese, a parte se è parlato da un imbecille come Julian Gester, che ci mette 4 ore a fare una domanda semplicissima, quindi chissà quando doveva chiedere il bagno, non lo so. Quindi lui poteva anche benissimo rispondere in inglese e insomma gestire tutto in inglese, solo che no, ha preferito esprimersi al meglio nella sua lingua. Poi è stato castrato dal traduttore, ma fa niente, succede insomma. E sì, io poi dovevo andare a vedere, a parte Election, dovevo andare a vedere un film brasiliano in bianco e nero di gran classe, che è Boa Sorte, Meu Amor, che sembrava molto, ma molto gagliardo. Purtroppo sono arrivato con i miei buoni 10 minuti d'anticipo, ma era già strapieno. Segno che forse è davvero un buon film. Spero poi di vederlo. E a proposito, segnalo che su Mubi quel servizio che è legato più che altro alla PlayStation, se non sbaglio, cioè no, è un servizio a parte, ma si lega alla PlayStation. E, si può comprare, mi sembra, tutti i film del festival a una cifra intorno agli 8 euro. Ah, no, ancora no, perché ho provato e ancora no. Però poi in seguito, insomma, si può vedere tutto quello che non siete riusciti a vedere. Quindi interessante. Unica pecca è che durante il film brasiliano, proprio a due passi fuori dal cinema, c'era l'incontro con il regista. E quindi o facevi uno o facevi l'altro. Però se io vado a vedere l'incontro con il regista e mi interessa, vorrei vedere il suo film e non posso. Se vado a vedere il suo film mi interessa e voglio sentire lui e non posso. Insomma, potevano organizzarla meglio, ma solo questo. A parte i cessi che perdono, non c'era altre critiche. Poi di solito gli incontri erano sempre ben separati dai film, per cui mi sa che è stato un caso unico. Poi. Anche perché non era segnalato. No, magari è improvvisato. No, sì, visto che sono le critiche, l'unica anch'io. Ecco, è capitato durante l'action e è proprio saltata la pellicola. In generale mi è sembrato che le pellicole fornite non fossero proprio il massimo. E va bene per Tempesta su Washington, che a proposito bellissimo, è piaciuto molto anche a me. Ma è Election, che insomma non è cazzo di quegli anni sulle spalle, insomma, pellicola graffiatissima, operatore che fa saltare il film a metà, insomma, non è stato molto professionale. L'unico momento, poi sì, questo incontro, e poi la fregatura, ma questo non è imputabile a loro. Il fatto che i film sono, cioè, come al cinema, si riempie a oltranza, si fanno i biglietti, poi si riempie, ma non c'è un orario, cioè può capitare a un'ora dal film o a 10 minuti, come è successo a lui. E poi di colpo non mi hanno accettato le monete al film, erano entrato in una sala, ho dato gli euro, esco, rientro, no, non accettiamo le monete, ne avevo prese già prima, come è possibile? E poi approfittate di questa cosa di Mubi, perché i film lì costano 15 franchi a proiezione, quindi 12,50 euro, invece con 8 euro li beccate tutti, vuoi mettere. E in italiano, molti di Preminger, ovviamente gli altri no, però insomma. E a proposito di Toe, visto che magari molti sono interessati e vorrebbero approfondirlo e non conoscono, comunque è difficile sceglierli nella sua lista di più di 50 film, volevo consigliarne alcuni. Da una parte quelli action più cacciaroni e più simili al suo stile, proprio il suo stile più esagerato, come Exiled, Mission e Vendicami, che potrebbero piacervi. Poi, se vi piace l'action, guardatevi sicuramente anche il seguito, l'action 2, che non è per niente inferiore, anzi è un bel continuo, non c'è nessun calo di qualità. Poi il suo capolavoro, almeno dal mio punto di vista, ma credo anche di intrinseco, che è Breaking News, che non è semplicemente quel piano sequenza stratosferico iniziale, è un film meraviglioso in tutta la sua durata. Poi i suoi film che ha fatto con Tony Waka Fai, che sono Running Out of Karma e Mad Detective, e un altro che adesso non mi viene, però vabbè, ve lo trovate, che sono un po' più particolari, si vede la mano di un altro regista, ma sono comunque interessanti e sono comunque scritti benissimo. Poi altri action meno togliani, però scritti una meraviglia e sono meravigliosi anche questi, che sono Running Out of Time, che è uno dei suoi più vecchi, PTU, il film più odiato da Sergio Leonard, e The Sparrow, che è uno dei più nuovi ed è stato anche uno dei meno cagati, non so perché, è molto buono, però davvero in confronto agli altri, anche se è sempre lo stesso cast, una storia molto simile a The Mission e agli altri, nessuno se l'è inculato, insomma. E poi a sottolineare la bravura di lui e di tutto il cast che ha dietro, di scrittori eccetera, gli ultimi due film che ha fatto, adesso mentre sto parlando ne ha già fatto un altro, vabbè, fa niente perché non gli riesce a stare dietro, però gli ultimi due che riesco a riconoscere sono Life Without Principle, che è stato proiettato anche a Locarno, e Don't Go Breaking My Heart, che uno è un film sulla finanza del giorno d'oggi e sempre della mafia di Hong Kong, perché è sempre centrale, e l'altro è una commedia sentimentale, che sono, magari non vi piaceranno tantissimo, ma sono scritti talmente bene che dici, vabbè, basta, questo qui è un genio, è bravissimo. E boom, guardatevi questi, siete a posto per un paio di mesi, credo, perché sono tanti. E poi appena avete smesso ne ha già fatti altri 24, quindi state tranquilli. Film in sala. Vabbè, allora dai, passiamo all'unico film in sala che di queste due settimane. L'unico meritevole. L'unico meritevole, sì, lo stavo per dire, ma... Roba ne è uscita, ma... è arrivato lo stacchetto musicale, quindi... E beh, lo speciale Vuxia anche. È regolare, no, lo speciale Vuxia. Già stiamo a un'ora, lo facciamo un'altra volta, lo speciale Vuxia. Ah, okay. Stiamo ben oltre l'ora e un quarto. Vabbè, allora, dai, allora sono telegrafico su telegraficissimo, anche perché dai, ha scritto pure la recensione, quindi Non mi ricordo se l'avete visto. Sì. Ah, e io ho finito di comprare il biglietto oggi, quindi non sì, ma tu hai visto altri Vuxia, quindi ne puoi parlare lo stesso. Ah, va bene, che sono tutti uguali, so. No, io mi ero fatto una bella introduzione sul Vuxia, mannaggia. Vabbè, velocissimo. Beh, parla comunque, perché vai, può essere anche che esce il discorso, quindi... Ah, vabbè, allora facciamo così. Io parlo di questo e intrinseco se vuole fare lui l'altro. Cioè, il film in sé, visto che l'ha visto. Pensavo che ero l'unico. Sì. Vabbè, se ne dovevamo parlare del tema in generale, almeno questo. Vabbè, veloce, allora. Per chi non sapesse cosa vuol dire Vuxia... letteralmente si può tradurre con eroe delle arti marziali, perché è l'unione tra Wu, che vuol dire appunto marziale, e Xia, anzi credo che sia Xia, però vabbè, che vuol dire eroe. Quando nasce il Wuxia? Nasce addirittura 2000 anni fa, perché sono racconti fantasy, tradizione cinese che nascono appunto su carta, ma sono nati con l'uomo, col cinese sono nati. E il primo film Wuxia che possiamo riconoscere, che possiamo ricordare, è The Burning of the Red Lotus Temple del 1928. Quindi hanno iniziato subito, molto presto, a fare i film cinesi e i film Wuxia. E i cinesi fanno i film cinesi da... Sì, è una sorpresa, non sì. Te l'aspettava nessuno. Sì. Beh, però è vero, perché prima arrivavano solo i film dall'estero. Vabbè, questa è una cosa che non c'entra. Pensate che negli anni dal 49, quando il Partito Comunista Cinese ha preso il potere, bandì il Wuxia. Non so perché, forse è una reazione verso la tradizione cinese. Sì, sopprimevano tutti, anche letterari, insomma, doveva rinnovare tutto, quindi. Centrato dentro anche il genere. Sia, siccome il Wuxia si presta sia a opera, sia a film, sia a scrittura, furono bannati totalmente qualsiasi forma di trasposizione, di scrittura di questo genere, a parte ovviamente Taiwan, Hong Kong, quelle zone franche, insomma, zone lontane dal partito. Però il Wuxia è sempre stato un genere cinese che è difficilmente uscito dalla sua nazione. Nonostante ci siano oggi film famosi come quelli della saga dello spadaccino Monco e altri, questi film sono arrivati tanto dopo, soprattutto dopo che Zhang Yimou ha fatto la sua trilogia Wuxia, che ha sdoganato il genere, anche grazie a Quentin Tarantino ovviamente, perché lui l'ha sponsorizzato in tutto il mondo e ha fatto conoscere appunto Hiro in primis e poi gli altri. E quindi... Non dico che adesso arrivino 50 film Wuxia all'anno, anche in Italia, ne arriva casomai uno ogni due o uno all'anno, però almeno adesso arrivano. E l'ultimo in ordine cronologico, perché ne sono già usciti tantissimi, è La Congiura della Pietra Nera, titolo originale Reign of Assassins di Cho Bin-soo, co-diretto, non si sa quanto sia stata pesante la sua mano, John Woo. Intrinseco, se vuoi dire due cose. Sì, dunque, come già più o meno hai detto tu, cioè, c'è sempre questo debito nei confronti di altri nomi, ma secondo me non è un fatto di rottura, cioè come per lo spaghetti western si parla di cioè, leone, dopo ti devi misurare con, ma secondo me è diverso il ragionamento, cioè sono un genere, almeno dico la mia, non voglio dettare legge, secondo me è un genere come molti di questi, è molto cafone, ignorante tutto sommato, anche se per loro ha un valore tradizionale, nel senso, molto semplice, terra terra. Sono questi registi che lo rendono interessante, non è che lo fanno loro e poi il film il genere si deve confrontare, no, è che arriva uno e ne fa quello che vuole, come Leone ha fatto quello che voleva per lo spaghetti western, Imu gli ha dato un tocco, cioè ha fatto quello che voleva, ha fatto qualcosa che li ha resi così interessanti, perché è un genere che mi piace, ma andando a riguardare quelli magari più classici o questo, mi rendo conto che è molto limitato, cioè, ci vuole, cioè, ha esaurito subito il suo valore, era un film che poteva andare una volta, l'unica è rinnovare, quindi da qui mi collego al film che appunto ahimè non porta nulla di nuovo esteticamente, non è scritto in modo particolarmente entusiasmante, io almeno io ho avuto l'impressione, vabbè anzi riassumiamo un attimo la trama e parliamo più in generale, poi traggo le conclusioni, c'è questa, parla di questa setta della Pietra Nera, questa setta di assassini, diciamo, che è alla ricerca, come molti altri, del corpo di questo monaco che, oltre ad aver padroneggiato le arti marziali in modo perfetto, anche pare ottenuto dei poteri particolari, non sto a dire cosa perché comunque è sfizioso come tipo di risvolti. E durante la ricerca di queste due parti della mummia, un'assassina, interpretata da Michelle Yeoh, si eclissa, si allontana da questa setta e si fa una nuova vita, ricorrendo niente meno che alla chirurgia estetica e a un matrimonio arrangiato in fretta. E purtroppo però, come sempre succede, e qui poi mi ricollegherò al discorso che volevo fare, in questo genere di film in Occidente c'è il passato che torna a morderle le chiappe, quindi qualcuno vuole questa mummia, insomma, i suoi ex compagni di mestiere vogliono quello che gli spetta, e quindi lei deve ritirare fuori la sua spada e rinunciare alla sua vita contro, lontana dalla violenza. E a me è sembrato davvero troppo, si strizza davvero molto l'occhio all'Occidente in tutto, e, a parte che si vede che è un regista che sì, probabilmente magari John Woo ci ha messo la mano, come dicevi tu, però è tutto sommato un esordiente in questo genere. Ho visto, ha fatto, questo è il terzo film, no? Se non sbaglio. Non ho guardato, no, mi sembra di più. Infatti... pare, no, dal regista dico. Ah, boh, sembra, non lo so. Se non sbaglio è uno dei primi, comunque sono quasi certo che sia il primo in questo genere. E si vede, insomma, no, chiaramente non mi aspettavo un Hero o seguiti. Però è, insomma, chiaramente manca di eleganza, però in generale mi è sembrato che fosse molto rivolto all'Occidente. Tanto c'è questa cosa dell'appuntamento combinato, i momenti anche leggeri, le musiche, il modo di mettere in scena la lotta. Sì, e chiaramente c'è dentro la tradizione, c'è dentro il wuxia, è questo, insomma, le armi, le tecniche, è tutto tipico. Però come è messa in scena, davvero, mi ha dato l'impressione di essere un prodotto destinato proprio all'Occidente. Non so se avete avuto, vabbè, lui non ha visto, non so se tu hai avuto la stessa impressione. No, anche anche nella comicità l'ho trovato molto cinese, la sua locataria, chiaramente quell'umorismo stupido, molto asiatico. Ma dal punto di vista comico, non so, non ho visto poche commedie, però non so, l'idea della storia d'amore, il modo in cui è raccontata, la chirurgia estetica, poi dicevo le musiche, sono molto poco cinesi, mi hanno dato questo, anche sì, poi sono quelle più leggere proprio nei momenti comici che sono diverse, ma anche proprio come ritmi, c'è questa foga di rendere più veloce il combattimento, che mi è sembrato più frenetico in generale della media di questi film, meno, sì, ben coreografato, ma meno coreografato, c'è la tecnica della spada che lo rende interessante, ma tutto sommato è veloce, ci sono questi fermi immagini alla finale che potevano risparmiarsi, sull'arma degli aghi che viene usata un po' troppo, però è, non so, mi ha dato questa idea di essere confezionato in modo diverso. Dura comunque le sue 2 ore, è un film che ha chiaramente uno spirito cinese, però ho avuto questa impressione fino alla fine. Ma forse solo perché appunto ne hai visti tanti con storie, non so, History of Violence, per dirne uno su tutti, che hanno questa impostazione e quindi ti ha ricordato un modo di fare cos'è? Occidentale. Ma non solo per la storia, sì, quello anche, che comunque è un cliché che si ritrova spesso, per cui vabbè, può valere poco. Però meno, cioè, ecco, vabbè, chiaro, non è giusto confrontarlo con gli Mu, però lì, cioè, quando si affrontavano due, soprattutto magari due arcinemici, c'era una un po' più scena di ampio respiro, la telecamera, la macchina presa, insomma, si allontanava un po', c'era un po' più di musiche adatte, quindi non lo so, un gusto un po', non so, non mi ha convinto del tutto, è diretto abbastanza bene, non benissimo, è... Ha una bellina, una storia intrigante, ma non è. Sì, a me è piaciuto. Non è trascendentale. Mi è piaciuto anche i colpi di scena, vabbè, telefonatissimi, però sì. È scritto bene, secondo me. Insomma, anche senza paragonarlo ai Mu, ma paragonandolo ad altri, se la cava. Non è sta cima, però è uno di quegli di quei Wuxia non cacciarone che punta più su altro. Infatti le coreografie non sono così tanto spettacolari, però penso che punti proprio su altro, punta sulla storia per una volta, e insomma mi è piaciuto, piacerà anche ai fan di Wu, soprattutto ai fan di Face Off, perché c'è una cosa in comune, sì. Quindi insomma sono contento, poi soprattutto che Wu sia tornato a Hong Kong, perché era già tornato con la Battaglia dei Tre Regni, che non è un Wuxia, però assomiglia, insomma, è storico, però sono contento per questo. Ecco. Praticamente non sembra un Wuxia solo a chi non conosce niente di storia cinese. Sì, vabbè, sì. Beh, insomma, chi conosce solo per lo stile, magari tende a riconoscere quegli stili e mi dice, ah, ecco... A ritrovare quel modo di combattere, quel modo di coreografare, poi ci sono finezze che li distinguono. Sì. Ma prima dei consigli, perché siamo in fase consigli, ma sì. Sì, perché comunque già siamo un po' dilungati tanto, quindi... Dico solo, è uscito anche Dream House di Jim Sheridan, l'ho visto, è un horror... è psychic thriller, una roba del genere, insomma. E se, non è malissimo, però vabbè, è una storia già fatta 500 milioni di volte, assomiglia a troppa roba, molto peggio della Congiura della Pietra Nera. Insomma, questo talmente, si è visto talmente tante volte che... Però appunto dietro c'è Jim Sheridan, un regista capace, c'è Daniel Craig, c'è Rachel Weisz, c'è, oddio, come si chiama quell'altra? Naomi Watts. Però, e appunto dice, ma sì dai, diamogli un'opportunità. L'opportunità non gliel'ha data neanche Jim Sheridan alla fine, perché lui, sì no, perché lo stava facendo. Sì, lo so. Ah, lo sai. Lo stava facendo e gli hanno imposto delle cose, lui si è incazzato e se n'è andato completamente e non voleva neanche il titolo, il suo nome a fianco al titolo, però per contratto è dovuto rimanere. Anche gli attori, che tra l'altro si sono conosciuti lì, si sono sposati, hanno disconosciuto il film, non gli hanno fatto pubblicità, quindi il film non è malissimo, non è quella schifezza che tutti parlano, però... Sappiate che Sheridan magari aveva in mente altre cose e gliel'hanno castrato, gliel'hanno rovinato, eccetera. Se proprio siete cosa fan, guardate. Nell'horror succede spesso questa cosa del film che viene tolto dalle mani o comunque rimane già... Leggendo e vedendone molti mi capita di imbattermi in queste cose. Succede spessissimo che un regista dica no, questo no, e poi glielo levano dalle mani o lui se ne va. Ma questo era Jim Sheridan, non era, non so, un esordiente, per dire. Sì, che lì è chiaramente più comune, certo. No, ma anche dei nomi grossi, capita ogni tanto. Però è un genere che i produttori influenzano molto, in qualche modo. Pensano di saperla più lunga, dai. Insomma, venderà la grande l'horror. Vabbè. Ok, passiamo allora ai conigli consigli. Dai, iniziate voi che io ci devo ancora pensare. Ho parlato troppo, quindi ci metto 3 secondi perché ce li ho già in mente. Allora, La città nuda di Jules Dassin, insomma, come si pronuncia non lo sa neanche lui, che è un film, una lettera d'amore a New York, su New York, è un noir spettacolare, bellissimo, bellissimo, è un finale che è storia del cinema, è puro, puro, bellissimo. E poi La Sanguinaria, Gun Crazy, che è anche questo un noir, uno dei preferiti di Martin Scorsese, mica l'ultimo dei Pirla, ma è anche il primo. E questo è bellissimo, ha mille difetti, ma anche tanti pregi, soprattutto perché era molto, è stato rivoluzionario in alcune riprese. E, però appunto è un film di cui ti innamori, è veramente bellissimo. Basta, ciao. Ok. Io? Vai. Vado io? Hai preparato? Vai, vai. No? Vai. Allora invece vi voglio consigliare, tanto per cambiare, un bello horror, si intitola Red, White and Blue, ma lo consiglio perché non uscirà mai, è del 2010, è interessante per molte ragioni, è un film molto forte, quindi consigliato tra virgolette, dipende insomma dai vostri gusti e dal vostro stomaco, è molto forte da un punto di vista visivo, fa vedere cose che tutte le donne probabilmente non piaceranno. E emotivamente, ecco, io magari la violenza la tollero di più, ma il tipo di storia che racconta colpisce, cioè, sembra una cosa rozza, è un rape and revenge, per dirla, chi conoscerà, insomma, stupro e vendetta, roba come Non violentare Jennifer e insomma, e tutto quello che ha generato come seguiti e remake. È interessante perché il protagonista, comunque il coprotagonista è Noah Taylor, non so se l'avete presente, è una faccia particolarissima, è un attore... quello che sta pure a Falling Skies? Non lo so, perché Falling Skies no. non... ha fatto Lezione no. 21, no, no, aspetta, era anche in Tomb Raider, faceva l'orologiaio in Tomb Raider. Ah sì, ho capito. Ha quella faccia molto particolare, è sempre il ragazzotto un po' smidollato, no? Sì, invece fa un personaggio che... non vi dico nulla perché è una sorpresa terribile, però fa un personaggio che ti fa dire cazzo, ma perché questo non recita di più, perché non fa questo tipo di ruolo, è magnifico, sono due o tre frasi che andavano messe in quei mucchi di citazioni che vengono tirati fuori nelle frasi per le frasi effetto, è davvero tosto. Se riuscite a dare un'occhiata, Red, White and Blue di Simon Ramley, molto interessante, è tosto. Ok. E niente, invece un consiglio a te, ma dato che oggi il giorno in cui stiamo registrando, che è appunto lunedì 13, è il compleanno di Sir Alfred Hitchcock, vi come chi? Il maggiordomo di Batman. Ah, ecco. E vi consiglio un libro edito da Minimum Fax, ovvero Io confesso, conversazione sul cinema allo stato puro, che raccoglie delle interviste fatte appunto a Hitchcock durante la sua carriera, durante i periodi diversi della sua carriera. È molto interessante, è ricco di aneddoti sulla carriera del famosissimo regista. E niente, il prezzo di copertina è di 15 euro, ma andando su IBS, sui vari siti, lo si trova anche a 10,50 euro, insomma, quindi una spesa tutto sommato irrisoria per un libro da più di 300 pagine. E niente, ve lo consiglio alla grande. E invece, qui mi tolgo un sassolino dalla scarpa, vi sconsiglio la nuova rivista di cinema Total Film. Non tanto perché è fatta male, ma più che altro proprio perché non ho avuto modo di visionarla, insomma, di poter esprimere un giudizio, perché dalle mie parti non è arrivato, ma soprattutto io non capisco l'utilità di avere una pagina di Facebook e poi non rispondere ai quesiti dei fan. Cioè, se vi segnalo comunque un problema di distribuzione, almeno un po' di informazioni dovreste darmene, anche perché sto mostrando un certo interesse verso il vostro prodotto, sai com'è? Insomma, è nuovo. È spicciolo, insomma. Appunto, quindi... Se vuoi partire come si deve, sì, non è una gran cosa. Mi hanno risposto, diciamo, scusa, mettendoci delle scuse, come il fatto che Facebook non notifica quei messaggi. Noi, gestendo la pagina di Filmbusters, sappiamo che li si segnala, li notifica, ma soprattutto è un riquadro che sta a fianco del primo post in pagina, quindi non mi sembra tanto difficile buttarci un occhio ogni tanto, insomma. E quindi niente, vaffanculo. E vabbè, ragazzi, non so se volete aggiungere qualcos'altro. No. Ok. Lavatevi dietro le orecchie. Esatto. E la prossima puntata, visto che comunque la penuria di argomenti estiva ormai ha raggiunto un picco mai raggiunto prima, parleremo quasi interamente di film action e nello specifico dell'uscita principale di questa settimana, ovvero dei Mercenari 2. Non anticipo nulla, ma potrebbe esserci per la prima volta un ospite a Film Busters, speriamo che... Maolo. Sì. E speriamo che accetti di venire, e quindi lo conoscerete se accetterà, se non accetterà rimuoveremo questo spezzone da questo episodio, così almeno faremo nemmeno figuracce. E detto questo vi saluto, ci sentiamo la settimana prossima e salutate anche voi. Ciao. Vi lascio con una frase di Sergio Leonhardt su Clint Eastwood. Ha due espressioni, una con il cappello e una con il cappello che è un'altra espressione che comunque c'ha un'espressione. Con il cappello. Sì. E con il sigaro. Ciao. Ciao.